Buonasera, tu sei? Danilo Barra, vice sindaco di San Giorgio. E tu rappresenta Venus? Rappresenta Venus, dalle 2:30 ero lì che dovevo fare il turno come amministratore dalle 4 alle 7, e purtroppo ho visto delle cose che sono veramente brutte, delle cose che non dovrebbero mai accadere e che purtroppo invece sono accadute. Ho visto delle persone inermi, gente che dormiva tranquillamente nella tenda caricata dalla polizia, e questo senz'altro non è un qualcosa che può essere tollerato. Io credo che di fronte ad azioni di questo genere, al di là di quella che può essere posizione sull'opera di per sé, che chiaramente legittimamente può essere diversa, tutte le forze politiche, invece ho capito che ci sarà sì un pronunciamento da parte delle forze dell'opposizione, ma all'unisono la maggioranza difenderà l'operato della forza di polizia. Mi pare che questo sia bruttissimo, sia proprio un'involuzione democratica che non è tollerabile. Sì, ieri sera infatti è successa una cosa, come definirla, non so, cioè un attacco veramente, non so, spropositato e proprio fuori da ogni ordine di tipo democratico, no? È questo che abbiamo assistito comunque, cioè una repressione militare, poliziesca, contro persone pacifiche, inermi, che da giorni stanno facendo una lotta giusta per difendere il proprio territorio. Cioè, è inammissibile che possano succedere ancora queste cose, no? Certo, è lo sproposito del numero di uomini usati e del metodo usato che lascia allibiti, perché avrebbero potuto tranquillamente fare la stessa operazione, cioè sgombrare l'area usando delle metodologie del tutto diverse, cioè erano talmente tanti che potevano spostare tranquillamente di peso tutti i manifestanti senza bisogno di randellare o di fare della violenza di tipo del tutto gratuito. Questi giorni, allora domani ci sarà questo corteo, no? Da Susa, che andrà fino a Venaus, e sarà di nuovo, io credo, una manifestazione imponente di gente che pacificamente dice così non si può andare avanti, perché altrimenti se qualcuno si pensa di poter mantenere un territorio, una valle in condizioni di questo genere per mesi, per anni, intanto comprometterà del tutto la possibilità di... Scusa, pronto?